Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Parolo, Zanattino, Parolo, il sinistro, parte il tiro, rete, Parolo, gran gol, Lazio in vantaggio. Adesso attenzione al contropiede con Lulic, palla in verticale per Candreva che è partito solo davanti al portiere. Candreva, il tiro, rete, il raddoppio della Lazio. Altra imprecisione a parte di David Lopez, intanto Amsi può recuperare il pallone, grande apertura a destra per Caicon in area di rigore, la mette in mezzo, Higuain, accorcia le distanze il Napoli, il Pipita. Passato a Koulibaly, costretto a retrocedere il brasiliano, Koulibaly ruba la pallone, grande giocata di Koulibaly, attacca Mertens, ferma Mertens, l'ingresso in area di rigore, Mertens per Higuain, Higuain, rete, Higuain, 2-2. Numero di Maggio, a terra Maggio, attenzione, calcio di rigore. Fischiarocchi, parte Higuain e la spedisce alta sopra la traversa. Passa adesso a Facchini contro Medi, scoperta la difesa del Napoli. Pallone all'indietro, attenzione all'inserimento di Onazzi, rete! Onazzi porta la Lazio in vantaggio e probabilmente in Champions League. Colpo di testa e la Lazio in Champions. Il gol di Miro Klose. Quindi è finita così, ok, il prezzo è giusto, la classifica è corretta, la Lazio raccoglie quel che merita a Napoli, quel che ha meritato per tutta la stagione, il Napoli ha seminato invece per tutta la stagione vento, e l'unico a raccogliere il fiore nella tempesta è stato Benitez, che è il neo allenatore del Real Madrid. 800 24 0024, ciao Pierluigi Pardo. Pier? Io ci sono, Ci sei? Telefono fisso. Telefono fisso, grande qualità. Grande qualità. Come la Lazio, Bene. Io te lo dicevo ieri, insomma, la Lazio ha sportivamente meritato questo risultato. Ma assolutamente, assolutamente. Guarda, io credo che sapevo prima Auriemma, che non è certamente... Cosa ti ha detto? Che anche pubblicamente, insomma, anche a Napoli c'è la percezione, secondo me, del fatto che la Lazio abbia meritato nelle 38 partite della Champions League, senza se e senza ma. La Lazio ha fatto meglio, decisamente meglio di quello che era il potenziale di partenza. Il Napoli ha fatto decisamente peggio di quello che è il potenziale di partenza. Poi l'anno prossimo Pioli continuerà ad allenare la Lazio e, per carità, è una bellissima cosa. Benitez, nonostante il disastro, va a allenare Real Madrid, ma questi sono i giochi della vita, insomma. Però Pioli ha fatto un lavoro eccezionale. Corretta anche la classifica, anche per la Roma, nonostante tutte le sue inquietudini, perché non è facile, in fondo, dai, siamo onesti, l'abbiamo criticato un sacco di volte, abbiamo anche Sabatini, poi lo sentiamo, che ha speso qualche dubbio sulla gestione di Garcia degli ultimi balli, però tutta la stagione senza Castan, Strootman, con poco Totti, con poco De Rossi e Pjanic, soprattutto nel girone di ritorno, con un mercato che non ha convinto, con... i turbi, posso andare avanti, che è stato l'acquisto principale. Che ha fallito totalmente su tutti i fronti, posso andare avanti per un po', però non... No, ma la Roma merita la Champions sicuramente per la prima parte della stagione, perché non si può avere memoria corta. Quindi, chiaro, se parliamo degli ultimi 4 mesi, la Lazio non merita la Roma non merita nemmeno l'Europa League negli ultimi 4 mesi per il livello che ha avuto. Però nella prima parte della stagione è stata in corsa addirittura per lo scudetto nelle prime 15-16 giornate, quindi la somma di queste due metà fa sì che il posto in Champions, secondo me, sia meritato da parte della Roma. Bisogna leggere nelle pieghe di questa stagione, dopo tanti anni, dal 93 se non sbaglio non ha un giocatore in doppia cifra, alla fine si è salvata perché è riuscita, innanzitutto perché ha vinto i due scontri diretti del girone di ritorno contro Napoli e Lazio, e li ha vinti soprattutto grazie a un'ottima difesa. Stasera avremo Morgan De Santi, Stati Chitaka. Secondo me, insomma, la Roma nella seconda parte della stagione ha tenuto dietro, sì. E questa tenuta dietro le ha consentito di arrivare comunque a Dama, nonostante un attacco disastroso. Ma la squadra è abbastanza, voglio usare un'espressione forte, è abbastanza da rifondare, secondo me. Dici? Per certi livelli. Beh, insomma. Allenatore compreso, poi giochiamo, facciamo giochetto. Eletto, non è piaciuto, te lo dico sinceramente. Non ti è piaciuto, Garcia? Neanche Sabatini, l'ha detto pure lui. Sì, anche Sabatini ha le sue colpe. Cioè, io quello che credo e che penso è che l'euforia da derby, tra l'altro c'è questa notizia da verificare di Yang Ambiwa, che sarebbe stato aggredito da tifosi laziali, addirittura preso a cinghiate. Siamo alla follia, alla follia totale. Ma poi nel giorno della festa, la grande festa della Lazio, ma insomma, ma goditi quello che hai preso. Non c'entra niente il tifo, è pura delinquenza. Se venisse confermata questa cosa, sarebbe gravissimo. E detto questo, in generale, secondo me la Roma non deve farsi prendere dall'euforia del derby vinto e del secondo posto conquistato. Perché la Roma era partita con ben altri obiettivi, e se si accontenta, tra virgolette, di quello che ha detto Garcia l'altro giorno in conferenza stampa, secondo me si fa un torto. Deve avere l'ambizione di avvicinare il gap. Detto questo, poi che la Juve abbia preso un vantaggio difficilmente colmabile da qui a breve, questo è fuori discussione. La Juve ha preso un passo che tutte le altre secondo me fanno fatica adesso a tenere. Poi c'è l'Inter oggi, ieri Mancini ha detto servono 8-9 neoacquisti per la squadra. Non so se l'abbia detto anche a Toir, non so quale sia stata la risposta di Toir. L'Inter si può consolare con Icardi, capocannoniere, insieme a un Toni per il quale ormai di aggettivi non ne ho più. Comunque corretta la classifica per l'Inter fuori dall'Europa, corretta anche può diventare, guarda, sai che io amo l'Europa League, però alla fine secondo me può prendere il lato positivo della questione l'Inter l'anno prossimo. Non, cioè, quella di non avere altri impegni. Può provare a fare quello anche il Milan non ne aveva quest'anno, non ne avrà neanche l'anno prossimo. Infatti non è detto che e comunque per mentalità bisogna sempre provarci a prendere l'Europa, ci mancherebbe altro, anche se è quella minore. Però insomma bisogna cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno, che nel caso dell'Inter è questa possibilità, con un bravo allenatore come Mancini, che avrà la squadra a disposizione dall'inizio dell'anno, con due impegni soltanto a settimana, meglio con un impegno soltanto a settimana, di poter costruire qualcosa di più interessante. Allora, io sono certo che i nostri ascoltatori staranno per la maggior parte pontizzando, cioè facendo il ponte, 800 024 0024. C'è il ponte, già, ecco perché non c'era traffico stamattina per andare all'aeroporto. Hai visto mai, pensa che domani è pure festa, il 2 giugno, un po' dissociato, invece noi siamo qua diretta. 800 024 0024, c'è Giorgio De Luca, il nostro autore. Oggi c'è Peter Bescapè in regia, che saluto con grande affetto. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo e abbiamo degli ospiti. Siamo la Lazio, quindi siamo abituati a soffrire. Ci siamo complicati la vita, ma ho fatto i complimenti chiaramente ai miei giocatori, perché volevano dimostrare, contro tutti i pronostici anche strani, perché insomma, malgrado tutto quello che abbiamo dimostrato in tutto l'anno, insomma, comunque anche tutti i pronostici erano a favore dei nostri avversari, e invece noi volevamo dimostrare di meritare questa posizione in classifica, quindi ci hanno messo cuore, ci hanno messo intensità, attenzione, generosità, si meritano tutto questo perché hanno fatto sicuramente un'annata importante. Tutti convocati. Convocati. È una grandissima impresa, un grandissimo anno, e penso che ce lo meritiamo tutto. Venire qua a fare questo tipo di partita, questo tipo di prestazione, ce lo meritiamo. Dopo la prestazione, dopo la sconfitta al derby, eravamo un po' amareggiati, delusi, perché comunque ci tenevamo a chiudere il discorso Champions già dalla scorsa settimana. Però, ripeto, abbiamo fatto una grande prova su un campo difficilissimo contro un avversario forte. Beh, questo è uno dei segreti meno segreti della Lazio, questo era Candreva. Secondo me quel centrocampo è stata la vera forza della Lazio. Candreva, Parolo, io li inserisco. Tutta la vita non sono stati fatti vari 11, no? Migliori formazioni del campionato, la Lazio. Possiamo anche giocarci su questa roba qua, ma Questi due giocatori sono stati. Poi mettici Felipe Anderson, metti Klose, che è arrivato a quota 13. Sono tanti i trucchi di Pioli, però questo. Ma soprattutto questa coppia di mezze ali è stata straordinaria. Soprattutto molti meno punti deboli rispetto alle altre. Cioè, rispetto al Napoli, La grande differenza sta nei punti deboli. Se sono visti anche ieri, insomma, comunque Andújar sul primo gol ci mette del suo, la difesa. Napoli ha subito 71 gol in 59 partite in questa stagione, mettendoci dentro anche le coppe, sono tantissimi. Sì. Il Napoli ha delle grandissime aree di forza. Higuain per me rimane un attaccante straordinario, anche se ha un problema con i calci di rigore e alla fine poi anche altri problemi, perdonami Pier, perché ha fatto e disfatto da solo le sorti del Napoli in questa finale di stagione. Detto questo, è uno che ha fatto 28 gol in stagione, cioè, se il problema del Napoli diventa Higuain, no lo so, il problema del Napoli per me è Higuain sui calci di rigore, perché ne ha sbagliati 4 e forse ieri col senno di poi poteva non essere lui a calciare, visto che ne aveva già sbagliati 3 in campionato. Ma detto questo, senza la doppietta di Higuain oggi non sarebbe stato messo in croce perché ha sbagliato il rigore, no? Cioè, quindi insomma, dai, secondo me non è soltanto lui il problema. Contro il Dnipro certamente ha tradito, ci può essere il sospetto che sia un giocatore eccezionale come livello, ma fragile in certi momenti molto caldi. E poi magari ti viene in mente anche l'errore nella finale mondiale. Sì, vengono in mente un sacco di cose. Detto questo, per me Higuain è uno dei migliori giocatori del campionato. È uno che la Lazio, secondo me, non ha. Però la Lazio ha una forza e una qualità diffusa e una mancanza di punti deboli, una solidità che il Napoli non ha mai avuto in questa stagione. Quindi alla fine, secondo me, anche dal punto di vista tecnico, ha dimostrato di essere forse non più forte in assoluto come picchi di rendimento, ma certamente meno fragile, con meno problemi in determinati settori del campo. Napoli ha un problema dietro, no? Come lo vedrei? A parte il fatto che Ferrero da Fazio l'altro giorno ha mentito spudoratamente sui nomi degli allenatori. Paolo, chi erano? Paolo Sosa, Zenga. Non ha detto Zenga. Non ha detto stasera Zenga. Ce l'abbiamo a Tiki Taka, glielo chiediamo. Però insomma, sì, però ha detto? Non ha, ha detto. Adesso me li faccio ripetere da De Luca. Sono uno era Paolo Sosa. Gli altri che erano, Giorgio, poi fammelo sapere, comunque erano tre menzogne, perché Donadoni e Sarri, Paolo Sosa, Donadoni e Sarri, questi sono i nomi che aveva fatto. Invece arriverà Zenga, c'è stato oggi Mihajlovic che ha scritto questa lettera di addio ai tifosi della Sampdoria, e anche Mihajlovic, che avevamo già vestito di azzurro Napoli, rischia di rimanere col cerino in mano, perché oggi De Laurentiis, poi parliamo pure di tutto questo, è andato a provare a convincere Emery a prendere l'aereo per altro allenatore spagnolo a prendere l'aereo per Napoli. Tutto molto curioso. Allora, ascoltatori pontizzanti, 800 24 00 24. Lavoriamo solo io e Pardo, Peter Bescapè, De Luca e pochi altri sfortunati. Federico invece sta facendo il ponte. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Saluto Pardo, finalmente ho la fortuna. Comunque, le volevo fare un appunto, dottor Genta. Lei prima della partita di Napoli disse che la Lazio era spacciata. Ma quando? Mi disse, disse testuali parole: purtroppo la Lazio si è incasinata e perderà quella partita. Ma quello... io ieri ho detto che... No, ieri, vabbè. Io da tifoso della Lazio devo fare i complimenti a Tare, che ha fatto un assemblamento di persone, di calciatori, che era un grosso punto interrogativo. Che però mica tanto. Però alla fine ha preso tanti parametri zero, Djordjevic, Parolo, tutta questa gente. No, Parolo non era parametro zero, però comunque è stato pagato 5 milioni e mezzo, preso bene. È stato pagato un prezzo niente, quasi, ragionevolissimo. Prezzo ragionevolissimo considerato il valore. Io guarda, aspettavo, c'è un mio tweet che poi io, sempre a Roma, se tu scrivi di Roma a Lazio c'è sempre qualcuno che ti risponde. Mi ricordo benissimo il mio tweet dopo Lazio Bassano, abbastanza entusiasta della qualità della Lazio, Lazio Bassano Coppa Italia agosto 7-0, niente di. E devo dirti la verità che quindi mi aspettavo cose buone, perché mi sembrava che stesse crescendo con una serie di acquisti ragionati. La Champions non me l'aspettavo, ma devo dire la verità, se il Napoli avesse avuto un'andatura un pochino più regolare, forse la Champions non sarebbe arrivata. Cioè, la stagione della Lazio è ancora più da sottolineare, secondo me, in positivo, perché perché è riuscito ad approfittare delle debolezze, completamente riuscito ad approfittare delle debolezze del Napoli, cioè, e sì, parzialmente, soltanto parzialmente, di quelle della Roma, avvicinandosi molto. No, ma sai, è stata più continua. Cioè, io una volta l'ho definita la squadra più tedesca del campionato italiano, è una squadra molto solida, molto continua. Non dimentichiamo che ha perso a inizio stagione Gentiletti, che sembrava il capo di quella difesa, ha indovinato l'acquisto di De Vrij, il centrocampo molto ben costruito, attaccanti che facevano gol, per strada ha trovato Felipe Anderson, che si è un po' spento e si è un po' smarrito nel finale di questa stagione, forse pensando a prossime future destinazioni, però mi sembra una squadra che ha tutti i giocatori giusti al posto giusto, e quindi ha fatto un campionato di grande regolarità, e credo che questo sia stato quello che ha mancato al Napoli, ma anche alla Roma. Stefano, provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per la convocazione. Grazie a voi, siete i veri vincitori morali delle elezioni calcistiche, perché con voi... De che roba? Non ho capito. Siamo? Le elezioni calcistiche, i veri vincitori morali. Delle elezioni calcistiche. Ci sono state le elezioni calcistiche. Beh, ieri sono state le elezioni. Sì, ma non quelle calcistiche, non mi ricordo. Che ne so, io... Dica, Stefano. Un parere a voi, che ve ne intendete, su Montella. Montella a me sembra un po' vittima della maledizione di Prandelli. A Firenze, allenatori belli, belli da vedere, ma forse un po' soppanotti. Sì, però anche l'involuzione che ha avuto Prandelli, Montella, sì. Pier, che hai fatto? Hai prestato il telefono a Stefano? Forse sì, perché si sente pochissimo. Comunque, no, io ti dico che... Beh, Montella alla fine è arrivato quarto, eh. Cioè, senza Rossi, con nessun apporto, diciamo, da parte di Gomez. È arrivato quarto, sinceramente, senza mai avere la possibilità di andare in Champions, questo va detto. Però io sono d'accordo con Montella. Cioè, alla fine, secondo me, lui... probabilmente tutto nasce, no, dopo Fiorentina-Siviglia, dopo quello sfogo di Montella, il pubblico aveva fischiato, tra l'altro, insomma, chi conosce un po' i fiorentini sa che i fiorentini si prendono in giro. A Roma si dice: a chi tocca non si ingrugna, che vuol dire, se ti capita, insomma, ci devi stare, non puoi essere permaloso. Se sei permaloso, quindi ironia e autoironia ai massimi livelli, e questi i fiorentini, devo dire, sono top, come dicono a Fiesole. E Montella lì forse non ha esattamente capito, però ci sta pure, perché insomma, sì, arrivi in semifinale di Europa League, arrivi in semifinale di Coppa Italia e alla fine chiudi incidentalmente al quarto posto. Beh, se questa è un'annata da buttare via, certo, di no, di poi cosa, cioè, guarda, parlando, ti dico, no? 800 24 00 24, oggi voglio sentire parlare gli ascoltatori che ci saranno, che mi sembra giorno giusto. C'è un ascoltatore invece che scrive, si chiama Luca, che manda una mail e che dice: signori miei, a Fiorentina ha perso in casa due partite di fila contro Verona e Cagliari, non Juve e Barcellona. Se aggiungete 6 punti alla classifica della Viola, sapete chi è terzo in campionato. Ho capito. E aggiungi 3 punti alla classifica del Torino, chi va in Europa League? Cioè, questo vale per tutti o per quasi tutti, a parte la Juve che ha stradominato il campionato. Leva il colpo di testa di Young Ambiguara, Lazio arriva seconda allo stesso modo, no? O al tempo stesso dai alla Roma qualche punto buttato via, sì, durante il percorso, beh, arriva, sai, seconda al passo. Possiamo anche mettere le ruote a mio nonno, poi vediamo se funziona come appunto, Cariola. Appunto. Franco da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io volevo parlare un attimo dell'Inter. Prego. Ecco, sono purtroppo un tifoso dell'Inter. Ma levi anche purtroppo, insomma. Perché purtroppo? Insomma. Perché purtroppo? Perché sono nato tifoso dell'Inter. C'è di peggio, eh. E quest'anno è così. C'è di peggio, Franco. Su col morale, su col morale. Dica. Ascolti, no, volevo solo chiedervi un'informazione a voi. Informazione, va bene. Centro informazioni, traffico, sì. Savelli. Dica. Dell'Atalanta o Baselli, adesso mi ricordo se è Baselli. Baselli e Jacopo Savelli, che salutiamo. Sì. Baselli, giusto? Baselli, ecco, dovrebbe andare al Milan. Parlando, o è solo stato un attimo? Ma dovrebbe essere promesso sposo del Milan ormai da tempo. Poi al Milan che ci capisce, anche. Bravo. Quindi. Dovrebbe, intanto gli ha segnato. Insomma, è un 92 di grandi. Di belle speranze, no? L'ennesimo prodotto di lusso del vivaio dell'Atalanta. Atalanta che l'ha riscattato, se non sbaglio, un paio di anni fa, le booster, è stata Cittadella, insomma, buon giocatore. Questa è stata la stagione della sua completa consacrazione, secondo me. Secondo anno vero che lo vediamo in Serie A, ma quest'anno mi sembra che abbia avuto una continuità di rendimento sicuramente superiore. Quindi, no, giocatore interessante, molto interessante, però insomma, piace. Ma sai, cioè Bonaventura doveva andare all'Inter e all'ultimo minuto del mercato andò al Milan, cioè sono tutti giocatori secondo me ancora raggiungibili. Poi è chiaro che bravissimo giocatore di grandi prospettive, giovane, italiano, quello che volete, però al momento non è Yaya Touré, cioè non è uno di quei giocatori, credo che nella testa di Mancini debbano far fare all'Inter prossimo futuro il salto di qualità. Davide Alessandria, poi andiamo con la borsa. Buongiorno. Io volevo dire, ieri il Napoli credo che sia stato lo specchio del suo campionato, perché con quel gol che ha sbagliato Gaglione, il rigore che ha sbagliato Higuaín, un po' lo specchio, no? Tutto l'anno erano lì a pochi punti, addirittura per il secondo posto, e gli mancava quel qualcosa per arrivare al secondo posto. E ieri sera più o meno si è ripeschiato un po' il campionato. Poi volevo dire della Roma, secondo me la Roma ha giocato tutto il campionato senza quattro giocatori di grande importanza. Se togliamo quattro giocatori dalla Juve alla Lazio, alle altre non so che cosa combinavano, giocare senza Cassano, Strootman, Maicon, non mi viene in mente più chi è il quarto. Strootman, Castan, Maicon, poi dicevo Totti, De Rossi, Pjanic, l'anno in più di Maicon o l'anno in più di Totti, lo si poteva immaginare, lo si poteva supporre che Ashley Cole fosse un punto interrogativo, lo si poteva immaginare, altre cose sicuramente no. Castan, che ovviamente ha avuto problemi più seri, e gli facciamo per l'ennesima volta un grande in bocca al lupo per tutto. Chiaramente è stata una cosa che non potevi immaginare all'inizio dell'anno, anche lo stesso recupero di Strootman, che poi si è rifatto male, ma che poi sai, cioè, ti ricordi quel balletto inizio stagione con la Lazio furibonda perché Astori all'ultimo momento è andata alla Roma, poi la Lazio si è presa De Vrij, indovina chi è meglio tra i due. Comunque fermiamoci un attimo per la borsa, che oggi c'è, non è in fase di ponte, giusto? No, la borsa c'è, la borsa credo. Funziona. Come no? Oggi è mica festa. I soldi festa non solo per festa, solo per sta pontizzando. Ci sentiamo dopo, 800 24 00 24. Prima svolta della partita, ancora lunga però. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Convocati. Rischiamo al volo Bernardo Corradi, che saluto. Ciao Berni. Ciao Pierluigi, io avrei due domande per Corradi. Poi non so se la prima vabbè, è scontata e riguarda tutti i meriti della Lazio. Dicevo prima, la squadra più equilibrata, tolgo la Juventus, più equilibrata, più continua, dicevo una squadra tedesca, una squadra che ha saputo anche far fronte agli infortuni, fuori Giorgevic, è entrato Klose che ha ricominciato a segnare. La seconda riguarda la classifica marcatori, vinta da un signore che di anni ne ha... Quanti anni hai tu, Berni? Non mi ricordo più. Io, 39. Come Tony? No, Tony un anno più piccolo. Sì, 38, siamo lì. Comunque, 20 l'anno scorso, 22 quest'anno, fanno 42 in due stagioni. L'altro è un ragazzino, cioè Icardi, che forse si è confermato il miglior centravanti della nuova generazione tra quelli che giocano in Italia. Partiamo dalla Lazio. Allora, partiamo dalla Lazio. Dico che a mio avviso la Lazio è quella che se uno deve... Chiaramente quando stai valutando un progetto sportivo, un progetto di calcio, valuti quelli che sono i risultati attuali e le proiezioni future. A mio avviso la Lazio è quella che è cresciuta e nel proprio cammino di questo campionato, se uno va a guardarsi le partite, ha fatto un periodo molto buono, è caduta, si è saputa rialzare, ha fatto un altro periodo buono. Secondo me erano delle piccole scosse sismiche di assestamento e stanno buttando le basi, a mio avviso. Ora sono curioso di vedere come opererà il club sul mercato, perché a mio avviso hanno un telaio molto buono, bisogna vedere che tipo di option riescono a comprare. Questa è la mia sensazione. O quelli che riescono a tenere, perché non so Felipe Anderson se prende altre strade. Ma sai, comunque vadano al preliminare, che possono passare anche se poi ci sono delle squadre abbastanza non abbordabili al preliminare, però il fatto che possano avere la ribalta di una competizione importante secondo me potrebbe anche farsi di poter trattenere anche i giocatori con mercato. Sì, classifica marcatori invece? Classifica marcatori, dico che da una parte credo che la conferma di Luca Toni sia il fatto, è la dimostrazione che quando un giocatore è serio, è professionista, è applicato e trova l'ambiente giusto nel quale esprimersi. Noi adesso stiamo a celebrare Luca Toni, ma io mi ricordo quando Toni veniva attaccato perché magari a Roma, alla Juve, non trovava la continuità, non riusciva a giocare. E era andato a fare l'esperienza all'estero, sì. Si diceva essere un giocatore bollito, Emirati Arabi, sì, sì. Esatto, e quindi credo insomma sia la dimostrazione del fatto che quel tipo di giocatore là, di quella generazione, sia dura a morire, fra virgolette. Quindi tanti applausi a Luca. Per quanto riguarda Riccardi, credo che il processo evolutivo al quale abbiamo assistito è da sottolineare, perché Riccardi è partito come un giocatore dallo spiccato senso del gol, però molto egoista e poco partecipa alla fase di costruzione del gioco. Adesso stiamo assistendo alla definizione dell'Icardi 2.0, perché sì, hai ragione Pier. Sì, sono perfettamente d'accordo su tutto. Insomma, mi sembra che bisogna ricordarsi appunto anche i momenti delle critiche nei confronti di Toni. Penso che ci sia un tempo per tutto. Sicuramente lui è risorto per meriti suoi, ma anche perché ha trovato a Verona un ambiente ideale che da un lato gli ha dato, io questa cosa la vedo un po' quando parlo con Castano, no? Da un lato avere comunque una piazza calda, una piazza comunque appassionata per giocatori che hanno vissuto certe atmosfere, ti dà una carica diversa, c'è niente da fare. Verona queste suggestioni te le dà, perché è pubblico da grandissima squadra, no? Verona faceva 12.000 abbonati in Lega Pro, appunto, sì, certo. Appunto. Quindi è provinciale solo così, per modo di dire, non c'è niente di provinciale. E però al tempo stesso è una squadra nella quale tutto gira attorno a lui, per citare, esatto, un famoso spot. E quindi questo sicuramente gli ha dato, rispetto soprattutto al periodo della Juve, ma anche a quello della Roma, quando comunque era più giovane, e comunque le gol pesanti le aveva fatti in quella stagione 2009-2010, gli ha dato una centralità. Senti, la Robur invece? La Robur credo benissimo, no? La Robur Siena, perché ha vinto il campionato, ha vinto poi lo scudetto, quindi adesso credo ci sia forse un po' di impasse su quelle saranno e sarà il futuro della società, perché credo che Ponte, il proprietario, abbia bisogno di sostegno e spero insomma che lo trovi. Il problema grosso di Siena è che purtroppo, essendo andata in difficoltà al Monte dei Paschi, è andata in difficoltà una città intera, perché dal punto di vista sportivo avevamo comunque per una città di 70.000 abitanti, avevi una squadra in Serie A stabile e una squadra che ha fatto una dinastia basket, nel basket, sì, una squadra di basket che era ai vertici, insomma, che puntava all'Eurolega e che dominava in maniera assoluta in campionato. Perché c'era il Monte dei Paschi dietro e comunque finanziava tutto, certo. Purtroppo adesso la città piano piano si sta rialzando, però non è un momento facile per la città. No, la trampata che ha preso è stata tremenda. Grazie Bernardo. Buon Prego. Lavoro. Grazie. Ciao Bernardo, ciao. Corradi. Salutiamo Tancredi Palmieri. Certo. Signor Tancredi Palmieri, con il quale stavo discutendo di democrazia su Twitter, un momento di altissimo livello oggi. Di democrazia su Twitter. No, oggi Tancredi Palmieri ha fatto una cosa straordinaria. Ha fatto il referendum. Una cosa che mi fa. Spiegalo tu, Tancredi, ti prego. È cascato da qualche parte, adesso lo riprendiamo. Adesso parliamo comunque di democrazia, di elezioni, non elezioni, perché facciamo. Eccolo qua, è tornato. Eccolo qua, Tancredi. Raccontaci il referendum di oggi. Allora, ogni primo di giugno io indico un referendum sul mio Twitter account, chiedendo ai followers se chi è bloccato deve essere sbloccato. Lascio la decisione al popolo se vuole Gesù. Cosa vuol dire chi è bloccato? Che vuol dire? In colonna? Insomma, chi, gente che nel bloccato in dove? In questi 5 anni su Twitter. Gente che su questi 5 anni sarà bloccata per insulti vari. Ho capito. Tu vuoi bloccare uno, cioè, tu proponi l'amnistia proponi lascio la decisione. Io invece restiamo in tema, perché volevo fare questo giochino con voi. Eletto, non eletto, rieletto, non rieletto. Il primo è Mihajlovic. Eletto, bene, aspetta, diciamo aspetta. Siamo arrivati settimi con 56 punti, perciò abbiamo fatto un netto miglioramento rispetto all'anno scorso. Perciò di questo lavoro sono orgoglioso di quello che ho fatto io, quello che ho fatto i miei ragazzi e tutti. Poi naturalmente a fine ci dispiace non poter andare in Europa come sesto in classifica, e qua faccio complimenti a Genova per il campionato fatto. Allora, eletto o non eletto naturalmente a Napoli? In attesa di convalida dal TAR, perché lui i voti li avrebbe presi dal Napoli, però il Napoli deve vedere se candida qualcun altro, per cui in attesa di convalida dal TAR De Laurentiis. Sì, dal TAR e dalla corte spagnola dove oggi De Laurentiis è andato. Ma io non lo so, io mi piglierei in tutta sincerità, più che Emery, che è bravo, è quello che vuoi, però mi piglierei, andrei con certezza su Sinisa, Pier. Io penso che Sinisa sia un strafavorito per la panchina. Dici? Anche oggi che De Laurentiis ha preso quel volo? Ma sì, secondo me sì, anche perché insomma, molto banalmente, le possibilità, se il Napoli fosse andato in Champions, di prendere Emery la Champions la fa, La fa col Siviglia, in un ambiente che conosce benissimo, dove lavora la grande con Monchi, insomma. Non lo so, non mi sembra sinceramente che abbia bisogno di cercarsi qualcosa. Fantastica, è chiaro che è una bella sfida, però boh, mi sembra difficile, c'è poco da fare. La Champions, ragazzi, è una cosa che piace, la vogliono fare tutti, chissà come mai. Allora sì, fermiamoci un attimo per il traffico e poi facciamo due chiacchiere su Montella e su Garcia. Battaglia, andiamo da Nando Sandito. Nando, tutti convocati. Tutti convocati. Allora andiamo di corsa con gli altri due allenatori sotto elezione. Montella. Ieri con la società ci siamo chiariti, un lungo colloquio, abbiamo messo sul tavolo tutte le proprie convinzioni, le proprie valutazioni e anche le proprie potenzialità e aspettative, quindi c'è stata grandissima chiarezza nel rispetto dei professionisti e nel rispetto anche delle persone, che non è da poco conto, io ci tengo molto. Ci siamo preso qualche giorno di tempo entrambi e vediamo la calma e il sonno, soprattutto il riposo, cosa ci consiglierà insieme. E io vi chiederò, Pierluigi Paro, Tancredi Palmieri, rieletto o non rieletto alla Fiorentina? Facciamo anche Garcia. Garcia. L'abbiamo vissuto ovviamente male con questi tre gol irregolari, ma soprattutto quando tu torni nel tuo spogliatoio e non senti solo i tuoi giocatori delusi, ma dire allora possiamo fare di tutto non ci riuscirò mai, bisogna lottare contro questa smobilizzazione. E la verità specifica di questa partita era di ricaricare i giocatori e l'ambiente. E parole di ieri, quando una squadra come la Juve può fare il triplete, che posso dire di altro che è raggiungibile? Questo era Garcia. Allora, Montella rieletto o non rieletto? L'ambiente. Rieletto o non rieletto alla Fiorentina? Garcia, rieletto o non rieletto alla Roma? Palmieri. Allora, Montella rieletto come quelli che sono in 14ª posizione in lista, gli altri scalano e ti piomba a te l'elezione. Per mancanza, come dire, di particolare feeling con altri allenatori, in mancanza di vere opportunità allettanti per Montella, secondo me alla fine potrebbe essere che continuino un anno in più. Però secondo un me po' di inerzia, un po' di inerzia, Pierluigi. Sì. Se invece dico Spalletti, tu che dici, Pier? Ma io credo che Montella, se non ci sono alternative clamorose, rimane a Firenze. Mi sembra che ieri sia stato un passo verso la pace da questo punto di vista, e anche l'ambiente, secondo me, è stato un po' un lost in translation la polemica di Fiorentina-Siviglia, nel senso, appunto, come dicevo prima, i tifosi non hanno apprezzato, che i tifosi sono stati autoironici nei confronti della squadra. Montella non l'ha capito subito, si è un po' impermalosito, ma insomma secondo me si sono chiariti. Sulla sostanza, secondo me ha ragione Montella, cioè questa è una squadra che chiude al quarto posto, poteva essere il quinto, poteva essere pure il sesto, ma insomma, quella è la dimensione della squadra. Sì. E ha lottato in Europa finché ha potuto, ha perso, è vero, ha perso quei sei punti che ci ricordava l'ascoltatore, Maria Persi, in un momento in cui era in corso in Europa League, evidentemente non ha la struttura, l'intelaiatura per fare le tre competizioni, sì, poi ha ad alto livello, no? poi qualche attenuante ce l'ha, onestamente, come sì, il sì. Fatto di, insomma, Fiorentina grande mercato, lo ricordiamo, ha trovato Sala per strada, però Garcia rimane. Ma io penso di sì, Garcia rimane, ha un contratto lungo, Anche lì un po' rispetto dei Santi? Ma no, adesso non è che improvvisamente Garcia sia in discussione. Certo, c'è meno entusiasmo rispetto all'anno fa, questo è evidente. Ma questo è stato un anno... le parole contano, eh? Le parole e i budget contano. Sì, poi probabilmente alcune scelte di mercato Garcia le ha subite, però anche questo sarebbe un problema. Non le ha scelte di in prima persona. Sì, comunque diciamo che è il momento lì di fare un po' di chiarimenti, forse anche bruschi. Tancredi? Secondo me Garcia rieletto come quei rieletti che la direzione nazionale, volendo alle elezioni regionali, sostituirebbe, ma hanno un seguito talmente forte che non si possono permettere di non ricandidare. Per cui rieletto per il momento. Come ha vinto come centrosinistra in Umbria, bravissimo, perché senza non possiamo brillare, bravo. Conferma, ma senza brillare. Se continui su quella china, prima o poi ti rimpiazziamo. Senti, allora ci sentiamo presto, così ci dici se l'amnistia su Twitter ha funzionato. Io avevo già dato il termine per l'inizio di questo intervento. Il risultato finale è 60% no all'amnistia, quindi anche no Luciano Motti rimane con rimangono in rimangono nella loro gabbia virtuale. Bisognerebbe fare una maratona elettorale, chiamare Ventana, sì. Crozza, perché è così importante. Devo dire oggi devo il primo dire giugno il suo endorsement, Pierre ha spostato tipo il 15% di voti comunque. Ah sì? Ma io sono contro, io non ho mai bloccato nessuno, ma è chiaro che qualcuno ti insulta, ma va bene, è un po'. Ragazzi, ma sì, che vuoi fare? Grazie Tancredi Palmiere, a presto. Adesso vorrei cominciare un viaggio che durerà tutta la settimana verso Berlino. Road to Berlin. Road to Berlin. Molta enfasi. Ho già parlato Allegri. Hanno parlato Allegri e Marchisio. Sarà una settimana di molte parole, di grande attesa. Ho parlato anche Buffon, peraltro, che ha detto le cose più interessanti dei tre. Ma prima vi faccio sentire Allegri. Al momento la squadra ha fatto una stagione veramente straordinaria, e quindi soprattutto arrivare in finale di Champions non capita tutti gli anni, e soprattutto arrivarci in un anno dove la squadra ha vinto lo scudetto e ha vinto la Coppa Italia, che era la decima, era una Coppa Italia importante, e quindi giocare l'ultima partita che chiude una stagione così bellissima, credo che crei talmente tanta adrenalina e pochi pensieri, indipendentemente che affronteremo il Barcellona. Il principino sabaudo Marchisio. È un momento che sognano tutti, che inizia a giocare a pallone sicuramente, io come tanti miei compagni non vediamo l'ora di giocare una partita così importante, soprattutto con questa maglia, perché la Juventus non la gioca da tanti anni, e quindi c'è veramente tanta voglia di scendere in campo e di giocarla in maniera spensierata, con le grandi qualità che ha questa squadra, che ha dimostrato in questi mesi, avendo il rispetto di una grande squadra come il Barcellona, però di andare in campo e giocarcela fino alla fine. La cosa più interessante, forse, ha detto Buffon a UEFA.com, sito dell'UEFA, in cui ha detto che con Real Madrid avevano il 35, considerava una Juventus al 35% di possibilità di passare, e poi ha detto: credo quindi che le possibilità di vincere il trofeo contro questo Barcellona siano ancora minori. Hai capito, Buffon? Sì, ma meno del 35. Per me, guarda, nascondi, io questi giorni qualcuno mi ha chiesto, per me è 65-35. Sì, quindi sei d'accordo con Buffon? Per me sì, perché 70-30 mi sembra troppo, 60-40 mi sembra poco, secondo me 65-35, che quindi è più di un terzo di possibilità, 60-40, sì, 65-35, il Barcellona è favorito, non ci sono dubbi, perché se riesce a fare il tipo di partita che vuole fare, cioè se la Juve non trova le controindicazioni, il Barcellona può vincere, può vincere anche finale, facilmente. Finale di Coppa, però se la Juve bene, però insomma bene, la Juve ha delle bene, sì, guarda, secondo me ci sono due cose da dire. Uno, vabbè, la fisicità, quindi calci piazzati, dove la Juve secondo me non è inferiore, anche a centrocampo secondo me la Juve non è inferiore, e anche dal punto di vista dell'esperienza, insomma la Juve non è un outsider tipo Borussia Dortmund nella finale di Wembley contro il Bayern. La Juve è un outsider nel senso che da qualche anno il calcio italiano non riusciva ad arrivare in finale, ma dal punto di vista dell'esperienza dei giocatori, questi sono tutti, ci secondo me ci vanno belli convinti, cioè hanno una grandissima fiducia, cioè, di squadra, su una squadra. Pirlo, Buffon, Evra, un giocatore che in Italia che in campionato magari sembra quasi una seconda linea, Evra è uno che ha la quinta finale di Champions League, certo, in carriera, cioè, certo, questa è tutta esperienza, è qualcosa di difficile da definire dal punto di vista materiale, no? Ma no, poi però è un elemento tangibile. Contare che Buffon e Chiellini lì ci vanno con dei ricordi. Abbiamo un paio di minuti per salutare e ringraziare Mattia Grigolo, che è il direttore del quotidiano per gli italiani di Berlino, che si chiama Il Mitte. Ciao Mattia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì. Good? Very good. Senti, dai, Glavlish, Juventus in the Pokal finale. Dove il mio tedesco è finito qui. Che Berlino aspetta gli italiani, Mattia? Che Berlino aspetta? Berlino si sta preparando bene, perché tu sai che Berlino è una città relativamente tranquilla in linea di massima, e quindi avere una finale di Champions League è una cosa tosta, quindi si sta preparando in modo particolare, saranno molti sistemi di sicurezza. Sì, quello lo immagino. Unter den Linden non sarà lasciata sprovvista di sorveglianze, insomma. No, direi di no, anche se si diceva che dovevano mettere un maxi schermo alla porta di Brandeburgo, ma in realtà non avverrà, quindi non ci saranno maxi schermi per la partita, per chi ovviamente non riuscirà ad andare allo stadio in qualche modo. Ovviamente ci saranno però parecchi bar, io direi anche quasi tutti, sì, i bar, i pub, che avranno ovviamente alcuni maxi schermi o i televisori per poterla, certo, seguire, certo. Però la porta di Brandeburgo niente, rimane chiusa la porta di Brandeburgo al maxi schermo. Mattia, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Ciao, grazie. Pier, tu vai a Berlino? Io vado a Berlino venerdì, sì. Vai a Berlino venerdì. L'ultima volta che sei stato è stata quella là? No, io sono passato per Berlino prima di Wolfsburg-Napoli. Ah. Per un clamoroso gioco del destino, avevo una macchina prenotata a Gruppo D, mi hanno fatto un upgrade, quindi mi hanno dato una cabrio bellissima con il mio amico il collega Alessio Conti, abbiamo scappottato davanti alla porta di Brandeburgo e ho fatto il collegamento per tutti i convocati col telefono che ha retto, una cosa straordinaria, intorno alle 2. Sì, mi ricordo, devo dire, cose proprio tipo vacanze romane, sembrava solo a Berlino, vacanze berlinesi. Pier, stasera tiki-taka 23:25, c'è Morgan De Santis, c'è Ferrero, parleremo ovviamente tantissimo di Lazio, c'è Cristian Brocchi che è un ex della Lazio, c'è il signor Cruciani che verrà a festeggiare con la maglia di Felipe Anderson, e poi Maurizio Mattioli, e poi Dalai, Ordine, Barra, Satta, Buccino, soliti divani lunghissimi, Auriemma, di tutto. Ciao, Pier, sentiamo domani, ciao. GR. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Qualche ascoltatore via SMS 349-238-6666, tanto per ricordarlo, prima provocava, ma oggi di moto mondiale non parli perché il tuo idolo Valentino Rossi non è andato poi un granché bene, invece no, figurati, ieri c'è stato il Mugello Gran Premio d'Italia, un grande Lorenzo, Iannone strepitoso, Marquez che è caduto, Rossi che continua a giocare ad handicap, figuratevi se non ne parliamo. Dopo però aver discusso con Luigi D'Alecco e Alessandro della provincia di Milano, da cui parto perché Renina già prima. Alessandro, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao, dimmi. Allora, volevo farvi i complimenti per la trasmissione. Grazie. Poi fare una considerazione. Non so se Pierluigi è ancora in diretta. No, l'abbiamo lasciato ai divani di Tiki Taka. Allora, doveva mettere a posto i divani di Tiki Taka, ho capito. E io volevo fare una considerazione su Max Allegri. Sì. E sulla partita di sabato. Sarò molto breve per dare spazio anche all'altro ascoltatore che è in linea. Non ero tra quelli contentissimi a luglio, ma se fossi stato lì a Vinovo, solamente anche per una questione di educazione, non avrei preso sicuramente a calcio a sputi. Sì, no, anche perché quelle sono cose da animali. Esatto, quindi... dell'allenatore, soprattutto vedendo quello che in quei tre anni aveva fatto la società, e quindi avrei avuto un pochettino di fiducia in tutti loro. Vabbè, poi adesso è molto più facile parlare. Sì, adesso per quanto facile. Riguarda invece la partita di sabato, io noto una grande serenità da parte del nostro sì, mister. Sì, la vedo anch'io, già da un, già da un po'. Ho sentito anche ieri in trasmissione e secondo me noi non abbiamo niente da perdere contro questo squadrone fortissimo. Però molto fiducia soprattutto nel suo atteggiamento. Sì, la Juventus può giocare da underdog, però è una squadra che giustamente ha grande fiducia nelle sue qualità, nella sua compattezza. Poi è come quelli che vanno all'esame, sanno di aver studiato bene e poi vada come vada io ho fatto il massimo, che è il modo migliore di affrontare ogni tipo di impegno, non solo calcistico. Se tu hai la coscienza a posto e sai di aver fatto tutto quello che potevi, e io credo che la Juventus ha fatto e farà tutto quello che potrà per presentarsi al meglio a questa partita, poi se loro sono più bravi, che ci vuoi fare. Luigi, buongiorno. Sì. Buongiorno dottor Genta, chiamo da Calozzo Corte. Calozzo Corte. Niente, io sono juventino, volevo parlare di un altro argomento. Siccome si sente sempre parlare di mentalità vincente, fame di vittoria, no? Io, se lei è d'accordo con me, ho due esempi lampanti di mentalità perdente. Cioè? Le spiego. Uno è la Roma e l'altro è il Torino. Se lei va a vedere i risultati che hanno fatto la Roma, la Roma dopo il derby d'andata e il Torino dopo la vittoria nel derby di ritorno, vede che la Roma dopo il derby d'andata e il Torino che ha vinto il derby dopo vent'anni hanno buttato via la stagione dopo quelle due partite. Perché soprattutto... allora secondo me ci sono dei distinguo da fare sul Torino. Proprio non mi sento di parlare di mentalità perdente, perché ha giocato una stagione straordinaria. Poi possiamo discutere sul fatto che volesse o non volesse l'Europa League, che avesse finito la benzina, possiamo discutere di mille cose, però non mi sembra assolutamente mentalità perdente per il Torino nelle ultime due stagioni, anzi più vincente di così si muore nel rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda la Roma, ha avuto davanti agli occhi di tutti un calo di flessione, un calo di tensione, un calo di prestazioni, un calo di qualunque cosa che nemmeno Marquez in questo difficilissimo per lui inizio di stagione. A proposito di Marquez, vorrei parlarne. Sentiamo. Sì, nel 2014 sembrava l'anno di Marquez, vincendo queste 12 gare consecutive. Quest'anno sembra l'anno di Yamaha, non so se alla fine vincerà Valentino o vinceremo noi. Magari anche può vincere l'Educati o Marquez, perché come ho detto prima può succedere tutto, però sembra che quest'anno abbiamo la moto più equilibrata degli ultimi anni. Cosa ho dovuto fare? È una gara veramente difficile, no? Ma si sapeva, lo sapevo. Però non ho molta voglia di raccontarvi, perché sinceramente l'ho vissuta giro per giro. È stata molto difficile, tanto dura, però è stata una gara fantastica. È presto per dire che il campionato è chiuso, perché naturalmente mancano ancora 12 gare. Oggi due dei quattro che sono lì davanti hanno perso tanti punti, perché anche Dovizioso, no? Era davanti a Marquez in campionato, ma si è ritirato, ha preso zero. E Marquez è caduto, quindi noi due abbiamo allungato. Queste le voci dal podio di ieri, Lorenzo Iannone, Valentino Rossi, con chi ne parlo se non con il mio amico Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ciao Roby. Ciao Carlo, un saluto agli ascoltatori. Ciao. Senti, il primo mistero è Marquez, che succede? Il secondo, Marquez, dimmi che succede, vai. A Marquez. Lui guida così, in gergo si dice a vita persa, chiude la vena e non è capace di gestire, è partito veramente dietro, ha recuperato tantissimo. Quello che non si è detto e non si è vinto dall'inquadratura è che non gli ha mollato, secondo me, la gomma, cioè lui ha esagerato, è andato largo, poi col corpo ha esagerato, lui con la sua postura in sella alla moto si è sporto veramente troppo e quindi lo spostamento del baricentro gli ha fatto perdere l'anteriore, cioè non gli è scappato via, è la sua forzatura, la sua guida così aggressiva che lo porta a esagerare. Sì, quanto conta la pressione su queste cadute, su questo difficile inizio di stagione, e quanto invece una Honda che non è più a livello dei dominator degli ultimi due anni? Quello è vero, anche se Nakamoto ha detto che stanno lavorando tanto in Giappone, però ne abbiamo già parlato, l'anno prossimo Michelin, oggi sono giù a provare le nuove gomme, quindi si tira una linea e si parte da zero. La moto è fatta, il progetto è quello, possono fare piccoli correzioni, piccoli palliativi, ma il progetto Honda è quello. Non dimentichiamoci che però quella è la stessa Honda con cui Marquez ha guidato fino ad oggi e il suo stile di guida perfetto per quella moto. Nelle piste stop and go lo ha dimostrato. Il Mugello è una pista invece da raccordare, è una pista da accompagnare. Ho visto le prove dal muretto venerdì, vi assicuro che vedere Lorenzo tra l'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2 è qualcosa di fenomenale, perché come raccorda lui la guida, la traiettoria, sono due curve da appunto fare in una curva sola, non vedi il momento in cui staccano, vedi la forcella lavorare, raccorda perfettamente, ha una resa, adesso Lorenzo è veramente in palla. Appunto, io volevo farti questo ragionamento un po' ardito. Secondo me la gara di ieri ha segnato una inversione sul nome del favorito del mondiale, che a questo punto è secondo me Jorge Lorenzo. È un'impressione a pelle, è sottile. No, ma sono i dati a dirlo, perché 3 vittorie di fila, è il più a punto, da venerdì va subito forte, è con la testa c'è, Valentino fatica sempre e poi ci mette del suo nel warm-up il mattino, corregge 2 cose e ci ha abituato così, però è troppo rischioso, è le conseguenze, è partito dietro, comunque alla fine è arrivato, perché è stato veramente abile a tenere duro, ha perso un po' tempo all'inizio, alla fine sul podio ci è arrivato, sì. Però in questo momento Lorenzo è una spanna sopra, lo ammette anche Valentino, sì. Io vi avevo detto che a livello di testa Vale è quello che ha più esperienza, adesso comunque Lorenzo è veramente dura da sconfiggere, può solo succedere qualcosa all'interno della squadra. Sì, ma non si può correre sempre in quella maniera lì, non si può vivere sempre rincorrendo e poi rompersi la testa nel tentativo di quasi sempre riuscito di infilarsi sul podio, ma sempre con la lingua fuori, non si può vivere in questa maniera. No. È rischioso e paghi delle conseguenze, ieri ha pagato queste conseguenze Valentino, comunque nel weekend non è mai stato veloce, non ha mai trovato il bilanciamento della moto, non è riuscito a fare tempi interessanti, lo si è visto, fatica un po', a me sembra quasi vedendo il video che lui ha cercato di cambiare tanto stile di guida per avvicinarsi allo stile moderno di Marquez, sì. E non voglio dire che abbia perso, perché la Yamaha comunque era molto da guidare e molto puliti, mentre invece Jorge è rimasto convinto sul suo stile di guida, imperterrito, è andato avanti, ha risolto i suoi problemi di testa più che altro, sì. E adesso lui e la moto sono un tutt'uno, Lorenzo e la Yamaha, a vederli è veramente fantastico. Vale deve ritrovare un po' il bandolo della matassa, riuscire a velocizzare la messa a punto, certo. Fare un setup dal venerdì e essere subito lì davanti, perché non può rincorrere. No, ma anche perché dal suo team, io ho sentito un'intervista qualche giorno fa, dal suo team dicono, ma noi il venerdì proviamo delle cose, poi sabato ne proviamo delle altre, quello che funziona lo teniamo, quello che non funziona lo buttiamo, però mi pare, ripeto, non si possa sempre andare in questa maniera. No, qui. È rischioso. Pensiamo anche... Sì. Che Lorenzo venerdì ha corso senza Ramon Forcada, perché purtroppo gli è mancato il papà e l'ho raggiunto solo sabato. Quindi vedi cosa vuol dire esserci, vuol dire senza il tuo riferimento, il capotecnico. È riuscito comunque venerdì a essere veloce, a fare tempo, a mettere a posto la moto. poi sabato è arrivato e tutto è filato liscio, quindi vuol dire che lui c'è, è con la squadra, con la moto, è convinto, vuole riscattarsi dalla stagione dell'anno scorso dove quelle 10 vittorie di fila di Marquez hanno veramente offeso, l'hanno tramortito, sì, l'hanno hanno tramortito. Offeso mentalmente tutti, perché li ha ridicolizzati, gli altri si sono chiesti ma cosa siamo noi, sì, questa è la vendetta, sì. Capisci, quindi alla fine è un bravo anche Iannone perché è maturato. No, volevo chiudere con te su questo, piange il cuore nel vedere Dovizioso scivolare così in questa gara per mille motivi molto sì, chiari, lì è sfortuna. Però Iannone abbiamo avuto ospite tra l'altro giovedì, con una spalla che faceva male, con mille problemi anche fisici, che ha guidato da padre eterno, se non consenti Roma. Sì, devo dire che appunto questo secondo posto, la pole, è maturato ed è pronto per il grande salto, perché ha guidato bene, non si è troppo innervosito nel contrasto con Marquez, grazie a lui, a Marquez si è un po' ravvivato la gara, perché se no sarebbe stato avaro di sorpassi. Comunque ripeto, non ha esagerato, ma si è troppo innervosito. Poi fuori Marquez, quando vedeva salire Valentino, gli avvisavano dal box, è comunque stato calmo, tranquillo, ha allungato un filo il passo, soprattutto ha anticipato la mappatura di fine gara, che è più conservativa, risparmia le gomme, quindi ha usato proprio la testa, intelligente. Questo fa capire che è maturato ed è pronto per il grande salto. Entro la fine dell'anno una vittoria di Iannone ci sta assolutamente, sì, se la merita. Sì, è considerato che è una moto che va forte. Roberto Ungaro, ti ringrazio come sempre. Buon a lavoro. Te, un saluto, alla prossima. Roberto Ungaro, ciao. Direttore di Riders. Rimaniamo su due ruote, signori. E questo è lo sprint per la terza posizione con Porse, Viviani cerca il Lavarco, anche Giacomo Nizzolo, quasi tutti su una linea. La Etix Quickstep rimedia così proprio all'ultima giornata dopo un giro senza vittoria. E il Giro d'Italia si è chiuso così con questa volata di Milano, con Case, che è il belga che ha vinto, ma il vincitore ovviamente è quello che sto vedendo, una maglia rosa, brindare, un'immagine classica, spumantino in corsa. Ciao Ivan Basso, facciamo doppietta ieri e oggi. Facciamo doppietta. Ciao anche perché ci sono un paio di cose che ieri non sono riuscito a chiederti. La prima è questa. Qual è il sapore di vincere un Giro d'Italia da capitano, non giocatore, da caposquadra ombra? Il sapore di vincere un Giro d'Italia in questo modo, ma tu che l'hai vinto dall'altra parte, con un grande campione come Alberto Contador, è un prestigio per tutti perché ha fatto un grandissimo Giro d'Italia. Come ho detto più volte, non siamo stati bravi in alcune occasioni, quindi lui ha dovuto fare ancora di più di quello che era il suo compito, però è un'emozione grande per me. Io ho vinto due Giri d'Italia e devo dire che vincere un altro Giro d'Italia con un grande campione come Alberto riempie veramente il cuore di gioia, e soprattutto per quello che lui ha detto a noi giorno per giorno e quello che ha detto ieri sera, insomma, ci fa sentire importanti e questo rende felice. Ti piace correre così? Ti piace questo ruolo? Mi piace, mi piace molto, ma mi piace anche farlo meglio, quindi si lavora, il ciclismo fortunatamente regala un impegno dietro l'altro. Tra qualche settimana correremo la Route du Sud, quindi ovviamente un impegno diverso da un Giro d'Italia. C'è una lista da 10-12 nomi che correrà il Tour, quindi ci saranno 9 posti disponibili. Adesso nei prossimi giorni lo staff tecnico deciderà come la composizione della squadra, però questi 12 corridori devono lavorare con un unico obiettivo, cioè quello di sostenere al meglio Alberto al Tour, sì. Sicuramente molto meglio di come l'abbiamo fatto al Giro d'Italia. Senti Ivan, c'è qualcosa invece che non ti è piaciuto in questo Giro d'Italia? L'ho appena detto, quello che mi sarebbe piaciuto sostenere meglio il mio capitano. Cioè, non sei stato contento di come l'hai corso? No, di come l'ho corso ne sono orgoglioso e fiero, ma semplicemente perché ho dato tutto. Però ovviamente sono un corridore anche ambizioso, certo. È un corridore che vuole dare di più, quindi cercheremo di lavorare ancora meglio, perché questo fa parte della cultura di un professionista che ha sempre lavorato con grande serietà, e quindi voglio così migliorarmi e cercare di essere più presente nei momenti dove Alberto ha bisogno. Per finire, il giro degli altri italiani. Di Aru è facile parlare, Modulo ha anche ostrato delle tappe. Hai visto qualche cos'altro? Ma ho visto un gran bel giro. Io credo che l'Italia, con i due nomi che hai detto poco fa, insomma, può essere molto contenta di come è andato questo giro. È stato un giro molto duro, combattuto, non ci sono state tappe di transizione. L'unica tappa che il gruppo è andato a velocità regolare è stata ieri da Torino fino all'ingresso di Milano, che è un po' una passerella, però è stato un giro combattuto. E è significativo anche come due corridori che hanno attaccato nel circuito finale di Milano, le squadre molto molto stanche non hanno avuto la forza di riuscire a chiudere per fare la volata, anche per le forature. Però c'è stato veramente un gruppo che ha corso un grande giro d'Italia con grande agonismo, e le forze alla fine erano finite per tutti. Grazie Ivan. Buon riposo per il momento, poi ci risentiamo. Ciao Ivan Bassi. Ciao. Adesso ascoltatori, per chiudere e per finire, 800 24 00 24, vi abbiamo sentito e proposto tante cose. Roberto da Genova, grazie per l'attesa, Nina da un po'. Roberto, sì, buongiorno, grazie. Buongiorno, volevo fare una domanda, volevo chiedere una valutazione a lei, visto che è un esperto di basket, la valutazione tra Olimpia Milano e Sassari. E la seconda cosa, una valutazione sul campionato delle genovesi e sugli allenatori dei genovesi. Sì. Secondo me sono stati ottimi, una sua valutazione da esperto sportivo. Sono stati grandissimi, cioè, sarei indeciso sul coach of the year, no? tra i due allenatori delle genovesi. Gasperini ha fatto un lavoro meraviglioso, ieri sera l'ho visto dopo la partita, raggiante. È chiaro che rimane l'amarezza di non poter raccogliere i frutti che sei stato così bravo a mettere sull'albero, perché il Genoa, al di là della posizione in classifica, secondo me è stata una delle squadre più interessanti, ma questo sorprende poco, dell'intero campionato, dal punto di vista tattico, per la capacità di Gasperini nel muovere questa squadra come un grande burattinaio, nel fatto che comunque è riuscito a proporre giocatori nuovi. Si può fare l'esempio di Perotti, ma non solo. Mihajlovic, la classifica lì da reggere, la Sampdoria andrà in Europa League, la cosa che ha meritato per tutta la stagione, è sempre rimasta davanti, ha sempre fatto corsa in testa al gruppo, dunque il voto non può che essere altissimo per entrambi. Hanno fatto entrambi un lavoro straordinario. Per quanto riguarda la sfida Milano-Sassari, adesso si è sull'1-1. Milano ieri ha vinto gara 2, Sassari si conferma una squadra che Milano fa fatica a digerire, perché questa è la verità. Ha lunghi trascorsi e lunghe ferite ancora Milano sul corpo, per Coppa Italia, per trofei vari che Sassari le ha sfilato di sotto il naso. In tutta onestà, bravissima Sassari, ma non credo che Milano possa essere battuta da alcuno in una sfida alle 7 partite nel campionato italiano, quindi vediamo quanto Sassari riuscirà ad allungare questa sfida. Ieri invece è stata eccellente l'idea dell'allenatore di Milano, di Banchi, di accorciare le rotazioni, cioè inutile far giocare tutti quanti tot numero di minuti, quelli che sono pronti anche mentalmente in una partita così delicata stanno in campo, gli altri riprovi e se non vanno bene finiscono in panchina e se la guardano dalla panchina. È successo con Kleiza e non solo, con Ragland eccetera, quindi eccellente idea quella di Banchi ieri. Gabriele a Firenze, buongiorno. Oh, ciao Carlo. Ciao. Senti, ti chiamavo così per condividere con te una mia opinione sulla valutazione dell'annata della Fiorentina. Io sono pienamente d'accordo con quanto ha fatto ieri lo stadio, che ha applaudito tanti giocatori, che l'allenatore, che la dirigenza. Ma andando oltre, credo che la valutazione non vada fatta solo su quanti punti o la posizione in classifica che ha raggiunto, ma partendo dal bilancio, perché se vediamo quanto è costato ogni singolo punto della Fiorentina rispetto a società come Roma, Lazio, Milano, Inter, ritengo che sia non una buona annata, ma un'ottima annata. Sì, sì, sì, ma questo vale, è un discorso che può valere anche per la Lazio, ad esempio, è un discorso che può valere per le due genovesi. È chiaro che leggi la classifica, vedi dove è arrivata la Fiorentina, quarto posto. Io credo che qualunque fiorentino avrebbe, qualunque gigliato avrebbe firmato un risultato di questo tipo. Rimane l'amarezza perché alla fine hai avuto l'impressione di poter arrivare un po' più in là, e questa impressione, dopo aver visto la finale di Europa League, dopo aver visto un Siviglia che mi impressiona, ma fino a un certo punto quelle 5 sberle prese nelle due partite, secondo me non ci stanno, e in questo io posso capire l'amarezza di una parte di Firenze. Vedremo se questa storia andrà avanti, lo scopriremo insieme tutti i giorni, per tutta l'estate. Tutti convocati, Giorgio De Luca il nostro autore, Peter Bescapè in regia, ci sentiamo domani dopo il giorno delle 2, ciao a tutti.